La vita in un film di Franco D'Assisi. Laureato! Universo lavoro ti ha tradito? Mamma e papà che hanno creduto in te, che hanno pianto il giorno della lode, adesso ti tormentano, sgretolando la tua autostima. Laureato, ascoltami. Perché la tua futura sposa a uno come te dovrebbe preferire uno come me? Perché sono un dirigente della più grande catena di call center sul territorio e sono anche un inguaribile filantropo. Sì, perché io a uno come te regalo il sogno della vita. Scegli il soffice giaciglio di un futuro luminoso. Sono un eroe perché lotto tutte le ore. Sono un eroe perché combatto per la pensione. Sono un eroe perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe. Buonasera, buonasera da Franco D'Assisi, 18:08, La vita in un film, una puntata che è cominciata, come avete sentito, all'insegna del lavoro e di una canzone, Sono un eroe, dice Caparezza in questo brano, perché oggi parliamo di call center, il nostro programma La vita in un film che tutti i giorni, tutte le sere, così per una mezz'oretta vi aiuta e ci aiuta anche a andare un po' più a fondo di quello che il cinema lascia dentro di noi, di quei film in cui ci siamo rivisti, in cui abbiamo visto un pezzo del nostro percorso di vita. Ebbene, oggi vogliamo parlare di questo, perché negli ultimi anni, tanto in Italia quanto negli Stati Uniti, c'è stato un vero e proprio esplodere di film legati a questo microcosmo così particolare, così figlio dei nostri tempi, che è appunto il call center. Tutti noi siamo, bene o male, quotidianamente a contatto con un call center. Basta fare una telefonata per la nostra compagnia telefonica, piuttosto che per quella che ci fornisce i programmi in pay TV. Insomma, qualsiasi attività di un'azienda medio-grande oggi è gestita come appunto fronte rispetto ai clienti dal call center. Ma com'è lavorarci dentro? Appunto, questi film lo hanno spiegato. Fuga dal call center è il film centrale da cui abbiamo appunto preso la clip che avete sentito, ma non è l'unico. Dicevo, in Italia recentemente il grande successo di Tutta la vita davanti, per esempio, di Paolo Virzì. In America altre pellicole che hanno raccontato, magari non uscite da noi, ma avremo modo di sentirle durante la trasmissione, che hanno raccontato appunto questo microcosmo, i particolari rapporti che si vengono a creare internamente e a livello gerarchico e fra i colleghi, quello che rappresenta questo lavoro a volte dileggiato per ciascuno dei lavoratori appunto che ci sono dentro. E allora, se avete una storia da call center da raccontare, ma soprattutto se ne avete vista o rivista un pezzo delle vostre dentro un film, chiamateci all'800 24 00 24, così liberamente, anche per esprimere un parere su questo tema e sul cinema che ha trattato questo tema qui su Radio 24. Ripeto, 800 24 00 24, ci sono qui a disposizione, come ogni giorno, parecchie serate di grande cinema da vivere poi durante la stagione autunnale. Per lavorare e per allestire questa puntata abbiamo pensato di chiamare i due attori, due giovani attori di questo film, Fuga dal call center di Federico Rizzo, e sono Angelo Pisani, che saluto. Ciao Angelo. Ciao Franco, buonasera a tutti. Protagonista maschile Angelo Pisani, lo diciamo Angelo, famoso soprattutto ai più per essere un pezzo dei Pali e Dispari, ma con un percorso attoriale, artistico ormai individuale, e un percorso, Angelo, che so che ha avuto un frutto proprio recente molto interessante, perché in un festival molto agguerrito che si chiama Clorofilla Film Festival, non solo Fuga dal call center ha vinto il primo premio, ma tu hai vinto il premio come miglior attore. Sì, inaspettatamente è arrivato questo riconoscimento. Io sono molto felice, perché è anche un modo, insomma, per avere, come dire, il riscontro del proprio mestiere. Insomma, credo che questo premio stia a significare che il film è piaciuto e che il mio apporto a livello recitativo sia stato credibile, quindi sono felicissimo. E allora, così, anche per mettere in contatto i due attori che magari non si vedono da un po' o non si sentono da un po', abbiamo in collegamento anche Isabella Tabarini, che è la protagonista femminile. Buonasera Isabella. Buonasera. Saluto anche il mio collega Angelo che sente dall'altra parte. Ecco, che bello quando vi riunite così qui alla Vita in un Film. Allora, Isabella, perché tra l'altro il lavoro nel call center, abbiamo imparato un po' da tanti film che ne hanno trattato, e come tema centrale, come appunto Fuga dal call center, ma anche come tema laterale, dicevo, il lavoro nel call center ha un'influenza molto diversa, tra l'altro, tra gli uomini e le donne, anche se poi tendenzialmente mette zizzania fra tutti, perché come vediamo proprio nella coppia formata da Angelo e Isabella nel film Fuga dal call center, ci si avvicina a questo lavoro in una maniera, come dire, sì, è un momento passeggero, finirà, miglioreremo, guadagneremo abbastanza, poi ci si trova un po' invischiati, Angelo, no? Sì, in realtà il mio personaggio, ma come tantissimi altri personaggi, è un universitario che cerca, come dire, come soluzione temporanea il call center, ma in realtà poi, appunto, come succede nella vita vera, questa soluzione da temporanea diventa definitiva, ma proprio per questa realtà del call center che è transitoria, ma a un certo punto, adesso uso un termine un po' forte, ha un po' l'effetto che ha in un certo tipo, non so come posso dire, di droga, nel senso che è una cosa con la quale paradossalmente vuoi evitare, a un certo punto non riesci più a farne a meno perché ti sembra che sia l'unica fonte di sostentamento, e soprattutto perché le varie illusioni dettate dallo studio piuttosto che dalle ambizioni lavorative vengono disilluse, e allora ti ritrovi là e dici: purtroppo sono qui, ma per fortuna, perché è l'unico posto dove in realtà qualcosa riesco ad ottenere, a combinare, certo. Sì. Allora 800 24 00 24 per intervenire alla Vita in un Film. Siamo già in collegamento con il primo ascoltatore, Francesco da Roma. Buonasera Francesco. Salve, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo detto tema oggi, più che fuga dal call center, la vita nel call center. Tu che film hai individuato? Ma io un film, The Millionaire, un film uscito da pochi mesi, che narra appunto la storia di questo ragazzo indiano, lavoratore, o meglio, lui non lavorava proprio nel call center, però la scena del call center è molto eloquente nel film, penso che tu l'abbia visto. Assolutamente, beh, uno dei film più belli tra quelli usciti quest'anno, un film che ha molto a che fare con le cuffiette, con i microfoni, però esatto. Esattamente, sì, il call center in un pianeta assolutamente a sé stante, come l'India, tra l'altro, quindi sì, questo la anche... parte dei call center, dei servizi per dei software, delle software house più importanti. E volevo, scusa, parlare anche della mia esperienza del call center. Io ho 38 anni, sono un dirigente d'azienda, ma anche io nasco nel 98 come operatore di call center. La mia prima esperienza dopo la laurea, devo dire, ambivalente, perché da un lato mi ha lasciato molto come in termini di servizio virtuale offerto ai clienti. Dall'altro è stato un po' frustrante, logicamente un neolaureato dietro una cuffietta non è che si sente proprio a suo agio. Esattamente. Però... no, concludi, prego. Prego, continua. No, concludi pure tu, perché dobbiamo passare al traffico. Sì. Beh, dicevo che appunto l'ambivalenza di questa esperienza mi ha lasciato qualcosa di positivo. Forse sarò l'unico che dirà questa cosa in diretta. Ma non è mica detto, Francesco, perché poi sentiremo anche una clip dove c'è il mitico Tati Sanguinetti dentro Fuga dal call center, che la vede in un altro modo, ovviamente, la vede anche da un altro punto di vista. La vita in un film. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Eccoci ancora insieme alla Vita in un Film. Andiamo a sentire i prossimi ascoltatori. 800 24 00 24. Mi sono dimenticato, cosa gravissima, di dire che Francesco da Roma porta a casa le 5 serate di grande cinema con il cofanetto Wasoo. Ma ci sono ancora biglietti per chi ci chiama a parlare della vita nel call center. Ospiti di questa nostra trasmissione Angelo Pisani e Isabella Tabarini, che sono in collegamento con noi, protagonisti di Fuga dal call center di Federico Rizzo. Francesco da Milano. Buonasera Francesco. Buonasera. Allora, quale film? Tutta la vita davanti. Tutta la vita davanti. Paolo Virzì con Sabrina Ferilli, Isabella Aragonese, Valerio Mastrandea, cioè un po' del meglio del cinema italiano recente. Esatto, un film che ho visto di recente che mi ha sorpreso, perché secondo me interpreta molto bene alcune dinamiche psicologiche che si instaurano in alcuni uffici. E ironicamente mi ha fatto rivivere alcune cose che quando ero studente ho lavorato in una società di servizi, non era proprio un call center, però alcune dinamiche, il fatto di motivare molti ragazzi per spremergli quelli che poi erano i loro contatti per poi lasciarli andare quando non c'era più niente da prendergli, sono interpretate veramente molto bene. Anche il fatto, se vuoi, che il livello sociale delle persone che entrano in questo meccanismo è basso e ci si approfitti anche di questo. Beh, non è sempre così, però, come abbiamo sentito, anche il personaggio di Angelo Pisani in Fuga dal call center è un vulcanologo addirittura, questa cosa fa molto ridere nel film. Però effettivamente a volte l'approccio è, come dici tu, un approccio dalla base, a volte invece arriva un po' per necessità. Comunque, grazie a Francesco da Milano, due serate al cinema anche per lui, Tutta la vita davanti. Noi abbiamo pronto una clip che ci dà anche il sapore di queste realtà quasi, non vorrei dire da setta, ma insomma mi viene in mente questa parola, che si vengono a creare in questi gruppi di lavoro. Le faremo sapere. Grazie cara, ti faremo sapere. Perché voi siete persone e fate un lavoro. E allora forza ragazze, diciamo buongiorno a questa nuova splendida giornata. Buongiorno. È un robottino multiuso, signora Mortillaro, che segue 14 funzioni integrate in un solo innovativo elettrodomestico dal design prestigioso. Sì, ho capito, ma scusi, ma chi gliela dà il numero mio? 20 nominativi, freschi freschi, sicuri sicuri, tutti per te. Io la capisco benissimo, però se il nostro tecnico... Ho capito signora, però lei non mi... E allora vaffanculo te, porca troia, vaffanculo, che cazzo! Telefonista anche lei? Turno pomeridiano. Sindacato Precari, Giorgio Conforti, molto piacere. Ma lei quanti anni ha? 24, signora, perché? Ah, allora forse ha conosciuto mio nipote, Giulia. Ah, Giulia, sì. E che fa di bello adesso? Purtroppo non c'è più. Marta, del turno 9.13. Ma tu come ci sei finita lì dentro? Io cercavo lavoro e ho trovato questo. È strana, è laureata. No! E questa era Tutta la vita davanti di Paolo Birzì. Isabella Tavarini invece, protagonista di Fuga dal call center. Isabella, per una donna il lavoro in un call center, qui abbiamo sentito Sabrina Ferilli che ha una, come dire, una gerarchia importante dentro il call center, però poi scopriremo che a sua volta è succube di tutto quello che le sta sopra. Allora ti chiedo, per una donna, dicevo, il lavoro in un call center rappresenta anche un problema di organizzazione dei propri tempi. Nel vostro film Fuga dal call center vediamo che i due protagonisti a un certo punto non riescono più a inseguire i propri sogni, anche perché praticamente non si incontrano più, è così? Sì, infatti, perché comunque entrambi sperano di realizzare i propri sogni e poi si ritrovano invece a dover trovare prima un lavoretto per arrotondare, insomma, e pagarsi gli studi, poi questo ancora non basta, allora si trova un secondo lavoro, di conseguenza entrambi passano la giornata saltellando da un lavoro all'altro ed effettivamente non si incontrano più, e le poche volte che questo accade diventa più uno sfogo delle proprie rabbie e della propria repressione che hanno durante la giornata. Quindi poi sicuramente questo tipo di lavoro ti schiavizza anche emotivamente, perché non si riesce più a staccare e vivere una vita privata propria. Ecco, ma secondo te per una donna è diverso lavorare in un call center rispetto a un uomo? Ma al di là che ci sono sicuramente dei call center, che, come nel caso del mio personaggio, c'è cioè il call center erotico, quindi... Beh, in questo caso è necessario, realtà, diciamo... C'è già una realtà in più, anche se poi anche gli uomini ci lavorano, per la verità. Ma forse io mi riferisco sempre un po' al personaggio, la donna riesce a vederlo come una cosa, ok, adesso prendo, faccio questo lavoro e chiudo gli occhi e vado avanti. Poi sicuramente il fatto di essere repressi viene fuori comunque, però c'è una determinazione da una parte diversa, nel senso che si vuole risolvere la propria vita privata e si va avanti un po' come un martello. L'uomo, almeno da quello che salta fuori anche da questo film, si lascia un po' più andare a un certo punto e viene coinvolto in questo turbine di cose che gli accadono e non riesce più a uscirne. Allora, noi andiamo ad ascoltare una clip proprio tratta da Fuga dal call center, nel quale questo ragionamento che abbiamo appena fatto con Isabella è esemplificato, perché il personaggio di Isabella e quello di Angelo questionano proprio attorno alla necessità di soldi. Uno la vede con forse anche un po' di ottimismo, l'altra invece con estremo realismo. Sentiamo. Non tornano i conti. Allora, 700 euro io, 550 tu. Barra 600. Fa 1250. Barra 1300, è diverso. Barra 1300, vabbè, comunque le varo affitto, le bollette, la spesa, fa 1400, non ci stiamo dentro. Togli qualcosa ai divertimenti. Non ci sono i divertimenti nelle spese. Vorrà dire che andremo a fare la spesa al discount. Andiamo già al discount. Usciremo meno fuori a cena. Capirai che differenza. E cosa consigli di fare? Uno di noi due dovrebbe trovarsi un secondo lavoro. Io mi devo laureare. Vorrà dire che farò più ore al call center. Se te le fanno fare. Anzi, se chiedessimo un prestito? E secondo te ce lo danno? Allora, abbiamo due contratti. Ho capito, ma il tuo contratto progetto, il mio è un contratto a chiamata. Sì, però un minimo di ottimismo, dai. Così riusciamo anche a comprarci una macchina e così usciamo e rientriamo quando vogliamo. Noi non dobbiamo dipendere dai tuoi amici. Perché noi due si esce solo con i tuoi amici, quelli col BMW, quelli con la macchina col telecomando. Così esco quando dicono loro, torno quando dicono loro, invece mi compro una macchina e esco e rientro quando dico io con la mia fidanzata. Scrivi, Gianfranco farà più ore, scrivi. Beh, questo è straordinario davvero, Gianfranco farà più ore, Gianfranco, anzi Angelo Pisani, che è in collegamento con noi. Come hai preparato, fatidica domanda, ma questa volta ci interessa proprio perché il film tra l'altro è una sorta di docufiction, ci sono tante interviste vere con gente che lavora nei call center dentro questo film. Allora, come hai preparato il profilo psicologico di questo personaggio? Io in realtà quando ho parlato con Federico e mi ha spiegato che nel film ci sarebbe stato un carattere anche docu, ho capito che in realtà mi sarei dovuto far portare anche da quello che stavo vivendo io personalmente come attore o aspirante tale, e quindi la precarietà di un mestiere che non dà certezza e soprattutto appunto non ha come dire una regolarità, e quindi non ho fatto altro che portare all'interno del personaggio che dovevo interpretare questo senso di precarietà che mi attraversava e che mi sta attraversando tuttora. Anzi, devo dire che Fuga è stata proprio anche, come si può dire, no, una coincidenza nel momento giusto, nel senso che Federico mi ha chiesto di fare questa cosa proprio nel momento artistico in cui io mi sono sentito più precario, perché volevo continuare a essere un comico ma volevo aprirmi anche ad altro, quindi ho ascoltato quel senso di precarietà che credo sia vivo in tutte le persone che si interrogano e che hanno voglia insomma di darsi da fare perché il destino prenda una certa via. 800 24 00 24 per intervenire in questi ultimi minuti della vita in un film. C'è in collegamento Fabio da Milano. Buonasera Fabio. Buonasera, buonasera anche agli altri ascoltatori. La mia esperienza penso che sia una largamente condivisa anche nei film che avete citato, che ho visto entrambi, diciamo è quella dello studente universitario che cerca in qualche modo di mantenersi gli studi, poi uno nell'altro viene fagocitato dalle dinamiche del call center, dal fatto che gli orari siano flessibili, gli consentano magari anche di spostarsi le ore per poter studiare e portare avanti anche gli studi, però poi è tutta un'illusione. Io ricordo con piacere in particolare il fatto di aver svolto sia il call center, perché ce ne sono tantissimi tipi, inbound e outbound. Chi ci ha lavorato o ci lavora sa cosa significa, vuol dire o ricevere le telefonate o cercare di farle. E in entrambi i casi ricordo ormai con tenerezza, perché sono passati più di 10-12 anni, che le esperienze, le telefonate erano veramente come quelle riportate nei film, cioè quasi paradossali, comiche. Anche le semplici battaglie che ora mi sembrano veramente banali per avere una cuffietta col microfono funzionante invece di un classico telefono da disinfettare all'inizio di ogni turno, era veramente qualcosa che all'epoca sembrava un grande traguardo, un trionfo ogni volta che venivi insomma con la pacca sulla spalla del capo del tuo turno. E oggi invece ricordo come ero piccolo in tutti i sensi in quel periodo, però è un lato che secondo me rende onore a quei ragazzi che, come il vulcanologo o me laureato in comunicazione, per un periodo abbiamo accettato di fare quello e secondo me lo si porta avanti con onore, poi prima o poi qualcosa arriva. Qualcosa succederà. Esatto, perfetto, grazie. Quella è la tua strada. Grazie a Fabio da Milano, siamo quasi in chiusura ed effettivamente il ragionamento di Fabio non fa una piega, insomma, c'è dentro tutto il mondo del call center in questo. Io una delle cose che trovo più pazzesche, viste proprio al cinema e pensate, è la vera tortura a cui vengono sottoposti questi ragazzi che lavorano in questo ambiente, quella di chiamare persone che non hanno assolutamente idea chi siano. Il fatto di rivolgersi per appunto vendere un tritatutto a una persona che magari ha un parente malato, in quel momento attraversa un periodo della vita pazzesco, un pensionato che non arriva a fine mese. Ecco, ci sono davvero, c'è questa impersonalità che mette, a mio modo di vedere, proprio soprattutto chi effettua le telefonate in una condizione spaventosa. Abbiamo pochissimi secondi per chiudere, ci sarebbe davvero bisogno di un'altra puntata per parlare dei call center. Io saluto velocemente Angelo Pisani. Ciao, ciao a tutti e alla prossima. E anche Isabella Tabarini. Ciao, ciao, grazie mille. Grazie a voi per essere stati con noi. Fuga dal call center, il film di Federico Rizzo che ha portato al titolo di miglior attore al Clorofila Film Festival proprio Angelo Pisani. Vi lascio con una breve clip, è in inglese ma è assolutamente comprensibile. È un film che in Italia non abbiamo mai visto. Si chiama Big Nothing, il grande niente. Si svolge tutto in un call center. A domani. Okidoki, again my name is Steven. Thank you for calling Centel. You have a great day. Welcome to hell, dickhead. Well, maybe not first sight. I'm sorry? Hell. People hooked up to machines like slaves. And the smell? It's pure underarm. Okay, so, what do we do here? Centel Online, Steven speaking. How may I help you?